Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 7 minuti, buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di spending review innanzitutto, ormai insomma parola nota, vuol dire banalmente revisione della spesa pubblica. Sono in corso incontri tra i ministri in queste ore, ci sarà quello con enti locali, parti sociali, insomma in settimana dovrebbe arrivare la decisione da parte del governo. L'attenzione in queste ore si sta puntando sul taglio ai dipendenti pubblici, si parla di 100.000 persone nel giro di 3 anni e soprattutto il taglio dei dirigenti pubblici. Vedremo di approfondire questo e visto che stiamo parlando di lavoro e avremo ospite il professor Della Ringa, parleremo anche dei dati sulla disoccupazione, in particolare i dati sulla disoccupazione giovanile che hanno toccato un record un'altra volta, nonostante cali la disoccupazione generale, anche se lievemente. Parleremo, oltre che di spending review o di revisione della spesa, parleremo dell'altra faccia della medaglia delle manovre, ossia le tasse. Nella fattispecie non fossero bastate le varie batoste tra IMU e accise sulla benzina, c'è l'IRPEF comunale che è stata incrementata. Oggi c'è una bella analisi, un'analisi dei dati da parte del Sole 24 Ore che illustra come molti comuni l'abbiano già alzata in realtà, e parleremo di questo. Parleremo ovviamente di mercati che sono positivi anche se non di molto, soprattutto per quanto riguarda Milano, a dire il vero, perché Milano guadagna lo 0,33% sul FTSE MIB e lo 0,44% sul FTSE All Share. Molto meglio vanno le altre piazze finanziarie europee, con Parigi che guadagna l'1,3%, Francoforte l'1,14%, Londra l'1,15%, con l'America negativa, il Dow Jones cede 0,5 percentuale, lo Standard & Poor's lo 0,29%. A proposito di mercati, poi torneremo su quello che sta diventando un tema sempre più importante, ed è questo scandalo che sta coinvolgendo le banche britanniche, e non solo loro a dire il vero, perché sentori di indagine si erano avuti già per esempio sulle banche svizzere nei mesi scorsi, della manipolazione del Libor. Per farvela molto semplice, che cos'è il Libor? È un tasso di riferimento per i mercati interbancari, cioè il tasso con il quale le banche si prestano denaro l'una con l'altra. Ebbene, le banche britanniche avrebbero, e non solo quelle, avrebbero fatto di tutto a partire dal 2007 addirittura per manipolare questo tasso al ribasso e quindi per apparire un po' meglio di come effettivamente erano, di far apparire il clima di fiducia lievemente migliore di quanto effettivamente non fosse, il che pone ancora una volta il problema della massa di regole finanziarie che stiamo approvando e che regolarmente vengono aggirate. Infine, i dati auto arriveranno dopo le 18 come sempre. Nel frattempo c'è notizia che il gruppo Fiat ha deciso di chiudere 5 stabilimenti Iveco in Europa. Tutto questo tra poco, prima come sempre le notizie in breve. In calo l'apertura dell'oro a 1592,8 dollari l'oncia e il petrolio aperto in calo a New York ancora una volta 83,8 dollari al barile. Vi abbiamo parlato anche nelle settimane scorse del fatto che si inizia a sentire più di qualche segnale di rallentamento dalla Cina. Ebbene, l'indice dell'attività dell'industria manifatturiera è sceso a giugno al livello più basso in 7 mesi, arrivando al 50,2%. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche qua c'è stato un calo dell'indice ISM manifatturiero, sceso a 49,7 punti da 53,5 di maggio. Gli analisti attendevano un calo più contenuto, a 52 punti. La vicenda dello scandalo Libor. Il presidente di Barclays, e questa è una delle notizie di oggi, si è dimesso. Marcus Aegius ha lasciato. Gli avvenimenti della scorsa settimana hanno messo in evidenza comportamenti inaccettabili, dice, e hanno apportato un colpo devastante alla reputazione di Barclays. Entro un mese ci sarà una decisione per quanto riguarda le misure penali, mentre il governo britannico ha intenzione di istituire una commissione parlamentare guidata da deputati e lord per indagare sulla trasparenza, i conflitti di interesse e gli standard etici del sistema bancario del Regno Unito. E a proposito di indagini sul sistema finanziario, l'ESMA, l'autorità europea per i mercati, ha aperto un'indagine per valutare se i criteri adottati dalle tre principali agenzie di rating, Moody's, Fitch e Standard & Poor's, per la valutazione delle banche sia stato sufficientemente rigoroso e trasparente. Indagine che dovrebbe concludersi per la fine dell'anno. E visto che ci siamo, la questione dell'Eurovertice, gli esiti dell'Eurovertice, come avete visto i mercati, dopo aver reagito molto bene all'indomani del vertice, appunto, sono lievemente in positivo nella giornata di oggi. Arriva notizia che Olanda e Finlandia avrebbero ribadito la loro contrarietà che il fondo salva stati ISM acquisti titoli di Stato dei paesi in difficoltà sul mercato secondario, il famoso scudo antispread al quale teneva tanto il presidente del Consiglio Mario Monti, questo punto che è stato oggetto di controversie al vertice europeo della scorsa settimana. Già si ipotizza la possibilità di un veto da parte di Finlandia e Olanda. In realtà il trattato stipulato prevede che in situazioni di emergenza finanziaria, ossia quando sia a rischio la stabilità, dell'unanimità non c'è bisogno, ma basta l'85% dei voti, e dunque anche un no di Olanda e Finlandia potrebbe non cambiare le cose. Nel frattempo, dalla Spagna la notizia della fuga nei primi mesi del 2012 dai titoli di Stato spagnoli. Secondo quanto riporta il quotidiano El Economista, gli investimenti sono crollati del 24,4% a 212,5 miliardi di euro dai 281 di fine 2011. In pratica solo il 37% circa del debito pubblico spagnolo è in mano a stranieri, contro poco più del 50% del passato. E ora iniziamo col primo tema di giornata, ossia la spending review e il lavoro. Iniziamo proprio dalla cosiddetta spending review, la revisione della spesa. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, è 349-238-6666. Che cosa si prevede? Si prevede che si riducano di 100.000 i dipendenti pubblici in 3 anni, 10.000 entro quest'anno, altri 80-90.000 entro il 2014. Dipendenti pubblici che sono 3 milioni e mezzo, lo ricordiamo. Il taglio degli organici sarà più forte per i dirigenti, fino al 20%. Non dovrebbero esserci invece interventi sulle tredicesime. Saluto il professor Carlo Della Ringa, economista dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, esperto di lavoro ma anche di pubblico impiego. Professore, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, Voglio partire proprio da questi numeri che ha fornito il governo, o meglio, che non ha ancora fornito il governo, ma che risultano da indiscrezioni, e probabilmente entro la settimana ne sapremo qualcosa di più e avremo qualcosa di più ufficiale. Tra l'altro si prevede, si racconta, e queste sono sempre indiscrezioni, di 1 o 2 anni di deroga alla riforma delle pensioni, alla riforma Fornero, per favorire l'immediato pensionamento degli statali sessantenni in esubero, che sarebbero non ricollocabili. Allora, professore, vorrei innanzitutto chiederle, da quel che sappiamo, dalle indiscrezioni naturalmente, quindi con la riserva di vedere il lavoro fatto sul piatto, che cosa le sembra di queste ipotesi di intervento? Sono sufficientemente ambiziose, se si considera che già con i provvedimenti dei precedenti governi si era già inciso sul volume dei dipendenti pubblici. Ormai sono circa 3 o 4 anni che attraverso i blocchi parziali o totali del turnover c'è stata una diminuzione dei dipendenti pubblici di almeno 200.000 unità. Quindi altre 100.000 unità, se si riesce a metterle in pratica, significa effettivamente incidere sul pubblico impiego per quasi il 10%. E questo è un obiettivo, ripeto, ambizioso. Io penso che sia possibile garantire servizi pubblici e efficienza dell'amministrazione anche con un volume di occupazione minore rispetto a quella di 5 o 6 anni fa. Ecco, però quello che si richiede è che la riduzione del volume dell'occupazione sia accompagnata da interventi selettivi. Si è sempre detto che non si deve procedere con interventi lineari, cioè mandar via la gente così a caso, ma intervenendo su quelle amministrazioni che possono funzionare anche con un numero di dipendenti inferiori. Ecco perché credo che accanto a una riduzione del volume dell'occupazione dei pubblici dipendenti ci sia anche quella politica di ristrutturazione dei servizi e di mobilità del personale che deve accompagnare un processo anche di maggiore efficienza della pubblica amministrazione. E certo, professore, è certo, perché in sostanza se si decide di mandar via 100.000 persone e presumibilmente saranno, anzi certamente saranno prepensionati, il taglio di fatto è lineare, nel senso che tu mandi via solamente le persone da una certa età in avanti, senza riguardo al luogo, all'amministrazione nella quale lavorano e alle esigenze di questa amministrazione. Quindi ci vuole anche un lavoro di riorganizzazione piuttosto complesso, a dire il vero. Certamente, infatti le accuse che alcuni fanno, che si ritorna per questa parte almeno, perché ci sono altre componenti della spending review che sono invece più mirate e selezionate, ma per questa parte che riguarda i prepensionamenti si ha l'impressione di tagli indiscriminati e che rischiano di essere poco efficienti, a meno che, come ho detto, vengano accompagnati da piani di ristrutturazione delle amministrazioni che possono comportare mobilità del personale, cioè spostare il personale che per caso venisse a trovarsi in una situazione di carenza di personale verso quell'amministrazione, togliendolo invece da amministrazioni in cui ci sono eventuali esuberi. Ecco, quindi diciamo così, la riduzione dell'occupazione deve accompagnarsi a ristrutturazioni dei servizi e ristrutturazione della composizione della manodopera nelle varie amministrazioni. Ecco, dal lato invece dei dirigenti, professore, si parla di un taglio del 20%. C'è chi dice dall'altra parte: guardate, il vero problema non è quello, il vero problema sono i dirigenti a contratto che di volta in volta vengono presi nelle amministrazioni al cambio, in un'ottica, se vogliamo, anche distorta di spoil system, ossia di cambiamento di dirigenza all'interno di un'amministrazione al cambiare del colore politico, per dirla molto semplicemente. Insomma, c'è chi dice che il problema in realtà è quello e non sono il 20% dei dirigenti attuali. Certamente lo spoil system aveva delle sue ragioni d'essere per far sì che gli incarichi venissero riconfermati solo in caso di buon comportamento dei dirigenti, ma alla fine ha dato risultati peggiori di quelli aspettati, perché alla fine appunto si è messo in moto un meccanismo per cui i politici poi hanno abusato di questi meccanismi per mettere dentro dei dirigenti che di fatto erano assistenti alla politica, con contratti magari di diritto privato, ma che poi si sono sommati a quelli degli altri dirigenti che evidentemente non sono stati mandati via. E quindi c'è stata un'inflazione di dirigenti che adesso potrebbe essere curata, ma ripeto, rivedendo anche quelle norme sullo spoil system che sono state abusate dalla stessa classe politica. Ecco, nel caso dei dirigenti io penso che una riduzione possa essere compatibile con una riorganizzazione della pubblica amministrazione. Ritorno, nel caso generale della riduzione dei dipendenti, attenzione, perché ormai noi abbiamo una quota di pubblico impiego sul totale dell'occupazione che è sotto, in linea o appena sotto la media degli altri paesi. Possiamo razionalizzare e i margini ci sono, ma bisogna fare con degli interventi di ristrutturazione, di riorganizzazione, con capacità manageriali e non solo tagli per fare cassa. Sì, questi numeri che lei citava poco fa, tra l'altro sono stati diffusi oggi, se non ero proprio da un rapporto del CNEL, parliamo di un 14,3% sul totale dell'occupazione contro un 15% della media europea, quindi effettivamente insomma i numeri sarebbero quelli giusti. Le vorrei chiedere questo, professore, visto che sta circolando anche l'ipotesi, e tanto ne abbiamo parlato, in tema di articolo 18 di disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sta circolando questa ipotesi di 1 o 2 anni di deroga alla riforma Fornero, appunto per favorire questo immediato pensionamento. Insomma, molti già ci stanno scrivendo, non ci sembra possibile, insomma, una cosa di questo genere sarebbe naturalmente iniqua. Le sembra una possibilità in campo, professore? Cioè, qualcosa che si può fare? È la strada possibile, ma non c'è dubbio che è una specie di vulnus rispetto a una riforma delle pensioni che si è sempre presentata come molto rigorosa e che non intende naturalmente farsi carico di quelle situazioni di lavoratori che in futuro potrebbero trovarsi in difficoltà senza lavoro e senza pensione. Allora questi lavoratori del settore privato potrebbero domandarsi: ma perché io no e i pubblici dipendenti sì? Ecco, questo penso che sia ancorché penso che la soluzione sia ragionevole, però va certamente pensata bene per non creare disparità di trattamento che in un campo così delicato, socialmente importante come quello delle pensioni, è opportuno che il governo e il Parlamento non diano l'impressione di trattare diciamo, i lavoratori anziani in modo diverso a seconda del settore di appartenenza. Anche perché siamo ancora in ballo con la questione esodati, professore, quindi no, bisogna metterci la massima attenzione. Allora, professore, io vorrei coinvolgerla a questo punto anche su un altro argomento, che è quello sul quale la chiamiamo in causa più consuetamente, se vogliamo, che è il tema della disoccupazione. Allora, oggi sono stati diffusi i dati. Tasso di disoccupazione che scende lievemente dal 10,2% di aprile al 10,1% di maggio. È ancora pesantissima la situazione per quanto riguarda i più giovani. I lavoratori più giovani senza lavoro sono il 36,2%, ancora una volta è il livello più alto mai registrato, ampiamente sopra il terzo della popolazione giovane. Insomma, il rischio, forse lo stiamo ripetendo un po' spesso, ma è anche importante, il rischio che gli effetti di questa crisi devastante si stiano scaricando solo su quella fascia della popolazione molto forte. Certamente, guardi, è proprio un problema di coperta corta, quindi la coperta è la crescita, se non c'è crescita la coperta è corta. Noi negli anni passati, anche con l'ultima riforma, abbiamo giustamente allungato la vita lavorativa dei lavoratori anziani, i quali aumentano, tra l'altro, per ragioni demografiche, perché la popolazione si sta invecchiando. Una giusta preoccupazione di trovare lavoro per le persone anziane per andare incontro ai problemi di cui si diceva prima. Ma se la coperta la si tira da una parte, scopre l'altra, e sono i giovani. Quindi in un mese in cui paradossalmente le cose sembrano andare meno peggio del previsto, la disoccupazione disoccupazione generale diminuisce seppur di poco e aumentano poi i posti di lavoro, sperando che sia questa una tendenza, anche se dubito che possa essere confermata nei mesi futuri, ma anche in questa situazione i giovani ancora di più la disoccupazione aumenta. È veramente la piaga sociale. Senza crescita i giovani pagano e pagheranno sempre di più. Eppure, a proposito della questione della coperta corta, professore, ci sono degli studi che sostengono invece che in realtà l'incremento, ma questo forse avviene solamente per le economie particolarmente dinamiche e quindi evidentemente non per la nostra, all'aumento dell'età pensionabile in realtà corrisponde anche un aumento dell'occupazione giovanile, però immagino che questo avvenga solo nelle economie appunto particolarmente dinamiche. Quando funzionano i meccanismi di aggiustamento microeconomici e macroeconomici, l'aumento dell'offerta di lavoro causata anche da un aumento dell'età pensionabile è positiva, aumenta l'occupazione e il PIL, però bisogna che ci siano questi meccanismi di aggiustamento interni che creino più domanda di lavoro di fronte a un aumento dell'offerta di lavoro. Se mancano i meccanismi si crea solo più disoccupazione. In questo momento mancano sia su un fronte che sull'altro, soprattutto quelli di tipo macroeconomico. Se la macroeconomia è nello stato in cui è, in cui occorre fare delle manovre al ribasso sui conti pubblici, è chiaro che l'economia non riparte e quindi l'aumento dell'offerta di lavoro tragicamente può trasformarsi nel breve, nel medio periodo perlomeno, in un aumento della disoccupazione. Le voglio fare un'ultima domanda prima di chiudere, tornando all'argomento che abbiamo toccato all'inizio, professore, ed è quella che riguarda il pubblico impiego, perché ci stanno arrivando molti sms di ascoltatori al 349-238-6666 che fanno notare che c'è anche una certa differenza tra il numero di dipendenti pubblici al sud e il numero di dipendenti pubblici al nord in rapporto alla popolazione, cioè c'è un numero molto elevato di dipendenti pubblici al sud in rapporto alla popolazione rispetto a quanto non ci sia al nord. E in realtà, da quel che ho capito, i margini di intervento del governo da questo punto di vista non sono amplissimi, c'è più un lavoro che va fatto a livello di enti locali. Sì, certamente, certamente. Diciamo che la sproporzione è soprattutto in relazione al PIL. C'è molto più occupazione pubblica al sud rispetto al PIL del sud che non al nord. In qualche caso anche rispetto alla popolazione, ma qui il quadro è più variegato e dipende molto dai tipi di settori. Può essere vero nella scuola, ma meno vero nella sanità. Nel complesso è così, naturalmente. Purtroppo il pubblico impiego in una certa misura svolge il ruolo di ammortizzatore sociale nel meridione. Questo è un ruolo improprio che deve essere corretto, ma anche lì si può correggere, intervenire direttamente sul fenomeno, ma sappiamo che per risalire a monte occorrerebbe pensare a uno sviluppo di quelle aree che è rimasto fermo in termini occupazionali da 7-8 anni. Quando il nord cresceva in termini di occupazione, il sud ristagnava. Ecco, dobbiamo porci questa domanda, che è la domanda fondamentale per far ripartire quelle aree così disastrate. Grazie al professor Carlo Della Ringa, economista dell'Università Cattolica di Milano, tra l'altro ex presidente dell'ARAN ed ex commissario straordinario dell'ISFOL, editorialista del Sole 24 Ore, e buonasera professore. Buonasera a tutti, grazie. Dobbiamo dire, giustamente ci fate notare, ovviamente dobbiamo vedere che cosa deciderà il governo, però ci fate notare giustamente che l'ipotesi di una riapertura della finestra per il pensionamento dei dipendenti pubblici creerebbe una disparità inaccettabile rispetto ai dipendenti privati. Abbiamo parlato di pubblico impiego, di lavoratori del pubblico impiego che probabilmente andranno in pensione in forza della spending review prevista dal governo, abbiamo parlato di disoccupazione. Ci chiedete a proposito di pensioni, mi piacerebbe sapere se chi riceve 10, 20, 30 mila euro di pensione al mese abbia versato contributi sufficienti ad avere questa pensione. Dipende, perché probabilmente insomma prima del 1995 nel senso che prima vigeva il sistema retributivo, nel senso che si prendeva la pensione sulla base di quanto si guadagnava e non di quanto si era versato. Poi dal 1995 le cose sono cambiate, anche se con una certa progressione. Questo per quanto riguarda le pensioni. Noi adesso però veniamo, prima di toccare il tema dell'IRPEF dei comuni, altra batosta che sta per arrivare su un certo numero di cittadini, perché molti, ci segnala il Sole 24 Ore di oggi, hanno alzato l'IRPEF comunale. Prima di parlare di questo andiamo ai mercati. È una giornata che si chiude in positivo, anche se non in maniera eccellente, quantomeno a Milano. Il FTSE MIB chiude con un più 0,24%, il FTSE All Share con un guadagno dello 0,44%, ma fanno bene invece le altre piazze finanziarie d'Europa: Parigi più 1,36%, Francoforte più 1,24%, Londra più 1,06%, con l'America negativa, meno 0,43% sul Dow Jones, meno 0,23% sullo Standard & Poor's 500 e in guadagno, ma frazionale, un più 0,03%, il Nasdaq. Paolo Paronetto, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che giornata è stata, Paolo? Ma diciamo che oggi, dopo l'euforia di venerdì, è stata una giornata molto più nel segno della prudenza. I listini hanno invertito rotta più volte, ma comunque con oscillazioni decisamente più contenute. Come dicevi tu, Milano è stata alla fine tra le peggiori, quelle con rialzi inferiori, ma bisogna anche ricordare che venerdì era stata invece tra quelli che avevano guadagnato più terreno. Diciamo che gli investitori sono passati in parte ai realizzi dopo alcuni grossi rialzi di venerdì, ma comunque, pur nell'incertezza, il clima rimane abbastanza positivo, quindi continua a prevalere la soddisfazione per l'esito del vertice europeo di venerdì, di giovedì e venerdì. Quindi un certo livello di euforia che non si è spento. Le banche, mi sembra di aver capito, piuttosto contrastate, perché abbiamo Monte dei Paschi che guadagna un 2,19%, UbiBanca più 1,17%, Intesa San Paolo giù dell'1,43%, dell'1,41% Unicredit. Quindi non c'è stato un tema banche nella giornata di oggi? No, sono andate in ordine sparso, appunto come dicevi tu. Alcune di quelle che hai citato, quasi tutte, venerdì avevano guadagnato più del 10%, quindi ovviamente qualche realizzo era sicuramente da mettere in conto, ad esempio Unicredit e Intesa San Paolo. MPS invece ha continuato a salire, e ricordiamo che è stato tra i titoli più colpiti comunque nelle ultime settimane, dopo la presentazione del piano industriale e l'annuncio del ricorso a nuovi aiuti di Stato. Quindi evidentemente per molti investitori il titolo rimane, nonostante la rialza di venerdì, a prezzi interessanti, quindi sono continuati a prevalere gli acquisti anche oggi. E mi sembra tra l'altro che si guardi in realtà a singole storie, come nel caso per esempio di Prismi, anche il titolo migliore sul FTSE MIB, un guadagno del 2,64%, o Atlantia, un 2,5% di guadagno. Sì, esattamente. Per quanto riguarda Prismian, comunque il titolo è buona performance da un po' di tempo. Oggi è arrivata la notizia di una commessa che, della verità, è soltanto di 5 milioni, quindi ovviamente per il business di Prismian non è particolarmente rilevante, però è bastata questa per mettere il titolo sotto i riflettori, appunto in una giornata che, al di là dei temi europei, non è stata molto ricca di spunti. Per quanto riguarda invece Atlantia, continua appunto la riorganizzazione e il rilancio del business nel Sud America, dopo aver annunciato la settimana scorsa l'acquisto del 100% di Autostrade Sud America, e quindi deve aver raggiunto la totalità della controllata. Oggi la società, il nuovo annuncio è di aver perfezionato una joint venture in Brasile, che appunto dovrebbe far rilanciare il business in quest'altro paese sudamericano. Gli analisti e gli investitori apprezzano queste iniziative nel mercato sudamericano. Oggi il titolo ha guadagnato il 2,49%. Bene anche i titoli del cemento oggi, Paolo. Sì, soprattutto sul FTSE MIB VC Unicem, che ha fatto più 2,43, ma anche Italcementi nel resto del listino è andata molto bene, ha fatto più 3,68. Sono saliti, hanno accelerato soprattutto nel pomeriggio, infatti dagli Stati Uniti è arrivato un dato molto positivo per il settore delle costruzioni. Le spese per costruzioni sono aumentate e in maggio, raggiungendo il livello massimo dalla fine del 2009, e ovviamente questi gruppi, soprattutto Buzzi, sono molto attivi anche negli Stati Uniti e quindi hanno approfittato di questo dato per guadagnare terreno. Male invece, a proposito di costruzioni, in pregilo. Sì, in pregilo Gino invece non ha approfittato di questo trend, ovviamente qui invece continua a essere i temi societari del controllo nell'azionariato che tengono banco, il titolo ha perso lo 0,89%, oggi è stato presentato il piano industriale della famiglia Gavi, cioè quello previsto dall'attuale dirigenza, dall'attuale vertice del gruppo, ma l'attesa è tutta per il 12 luglio quando ci sarà l'assemblea in cui è appunto atteso lo scontro tra i Salini e Gavi per il controllo del gruppo. In attesa di quell'appuntamento continuerà a prevalere l'incertezza e la prudenza sul titolo. C'è un motivo particolare, Paolo, per il quale Enel Green Power è stata la peggiore sul FTSE MIB, un calo del 2,8%? No, non c'è stato nessun motivo, il titolo era andato molto bene di recente, secondo alcuni operatori, visto che appunto il titolo aveva resistito alla volatilità recente, essendo tra i titoli più difensivi come molti del settore energia, oggi in un clima che si sta un po', almeno diciamolo con prudenza, ma un po' rasserenando dopo il vertice europeo, alcuni hanno preferito alleggerire il portafoglio che era stato un po' sbilanciato su titoli molto difensivi di recente. L'infinita vicenda fondiaria, sai, Paolo? Sì, anche oggi sono tra i titoli che si sono mossi di più, soprattutto appunto quello della compagnia Fonderia SAI che ha perso il 5,04%, oggi si tengono i consigli di amministrazione di Fonsai e Premafin per rispondere ai rilievi posti da Consob e ISVAP. Il timore in questi giorni è che possano slittare gli aumenti di capitale, l'aumento di capitale di Fonderia SAI che è previsto dal progetto di integrazione con Unipol, e questo ovviamente potrebbe mettere a rischio lo stessa l'intera integrazione. Questo ovviamente è un'incertezza che pesa sul titolo, anche perché non si capisce che cosa potrebbero fare le banche creditrici nel caso naufragasse l'operazione Unipol, e quindi gli investitori oggi hanno preferito alleggerire le posizioni. Tra poco parleremo, subito dopo le 18, dei dati sulle immatricolazioni auto che arriveranno appunto dopo le 18. È per questo che Fiat scende allo 0,96%, cioè attesa per questi dati? Ma oggi il tema è proprio quello, diciamo che sono prevalse le vendite in attesa di capire come sono andate le vendite in giugno. Ricordiamo che l'amministratore delegato Marchionne aveva annunciato di aspettarsi un altro calo a doppia cifra per le immatricolazioni, e quindi diciamo che gli investitori hanno preferito essere prudenti sul titolo in attesa dei dati di oggi. Bisognerà vedere poi la reazione del mercato domani, ovviamente all'indomani della pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Core, Il Sole 24 Ore, per essere stato con noi, e grazie ai colleghi di Radio Core come sempre. Buonasera Paolo. Grazie a voi, buonasera. Qualche altro titolo: Parmalat giù dell'1,74%, Ansaldo STS dell'1,69%, dell'1,6% la Popolare Emilia Romagna, Unicredit Intesa l'abbiamo detto giù dell'1,4%, così come Salvatore Ferragamo, di poco più di un punto percentuale Azimut, Fiat di quasi un punto come abbiamo detto, in pregiro dello 0,9%, Telecom Italia dello 0,77%, dello 0,76% il Banco Popolare, TOZ giù dello 0,7%, A2A dello 0,6%, Mediobanca, Fiat Industrial e Autogrill di mezzo punto percentuale, dello 0,3 Exor, dello 0,2 Mediolanum, ST Microelectronics dello 0,19%. La Popolare di Milano, ce lo chiedete, è in perfetto pareggio oggi. Tra i titoli positivi, oltre a quelli che abbiamo già detto, Tenaris su di quasi 2 punti percentuali, Campari di 1,5%, dell'1,3 Saipem ed Eni, scusate, UbiBanca dell'1,17%, Generali dell'1,13%, Lottomatica dell'1,12%, Diasorin su dello 0,9%, Mediaset dello 0,8%, Luxottica guadagna lo 0,65%, Finmeccanica lo 0,4%, Snam altrettanto, Enel lo 0,2%, Pirelli lo 0,12%, Eterna lo 0,07%. L'euro quota 1,25,83 contro dollaro. Per quanto riguarda le borse, quella aperta, quella americana, cede lo 0,45% sul Dow Jones e lo 0,01% sul Nasdaq e lo 0,27% sullo Standard & Poor's 500. Le 17:47 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Come si diceva, forse l'ho detto con un tono un po' minaccioso, adesso parliamo di tasse. Parliamo di tasse perché? Perché tanto abbiamo parlato di IMU, tanto abbiamo parlato anche di imposte indirette, come i rialzi delle accise sulla benzina. E oggi il Sole 24 Ore invece ci fa un bel, si fa per dire, un brutto quadro di quello che ci dobbiamo attendere dalle addizionali comunali IRPEF. La pagina, come spesso accade quando si parla dei comuni, è curata dal collega Gianni Trovati insieme a Cristiano Dell'Oste, e quindi Gianni Trovati è qua con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Gianni, che quadro ne emerge? E diciamo che vengono confermate i timori della vigilia, diciamo così, nel senso che siccome da quest'anno è tornata diciamo la libertà fiscale totale dei comuni di applicare, di alzare, di movimentare le aliquote fino al tetto dell'8 per mille, e siccome è tornata in un anno in cui gli effetti a cascata dei tagli ai fondi di riequilibrio, cioè agli ex trasferimenti statali, si fanno sentire parecchio, sono moltissimi i comuni che stanno aumentando le aliquote. Fammi indovinare, non l'ha abbassata nessuno l'aliquota? Non l'ha abbassata praticamente nessuno, qualcuno sì, è il caso di Firenze che per esempio ha fatto una piccola limatura all'addizionale IRPEF, ma per i proprietari di immobili questa piccola limatura è ampiamente compensata dalle aliquote IMU collocate dallo stesso comune, lì è anche in qualche caso diciamo si usa l'IRPEF un po' come alleggerimento, no? Come indoramento della pillolaccia che è quella dell'IMU. Però la tendenza assolutamente generalizzata è quella invece o di una stabilità per chi le ha già al massimo soprattutto, oppure di un aumento. Il Dipartimento delle Finanze censisce tutte le decisioni dei comuni, i comuni quest'anno hanno tempo fino al 31 di agosto, e in pratica metà delle delibere arrivate sono delibere di aumento. All'interno di questo pacchetto c'è anche quasi un centinaio, sono 88 per ora, ma insomma cresceranno, i comuni che hanno deciso di istituire l'addizionale IRPEF, perché c'era qualcuno che ancora non ce l'aveva, che ancora resisteva diciamo senza, e i primi sono caduti l'anno scorso, perché Milano, Brescia e Venezia, che non avevano mai, erano gli unici tra i grandi comuni a non aver mai applicato l'addizionale IRPEF, sono caduti l'anno scorso e quest'anno l'aumentano, sia Milano sia Brescia sia Venezia, insomma, e perché ci hanno preso gusto, non ci sono più soldi alternativi, ci sono da far quadrare bilanci sempre più complicati, e alla fine l'addizionale IRPEF è, come dire, una leva sicura, perché va su chi paga l'IRPEF ovviamente, quindi chi ha un reddito dichiarato, è una leva facilmente calcolabile, mentre sull'IMU, come sappiamo, ci sono tutta una serie di incertezze sul gettito effettivo per comune. L'IMU è facile perché il comune sa qual è la base, sa quanto arriva quando aumenta l'aliquota. Il problema è che appunto l'addizionale IRPEF che sale in media, tra chi la applica, sale in media del 15% rispetto all'anno scorso, determina diciamo un ulteriore zoccolo importante di pressione fiscale che si aggiunge a tutti gli altri, perché a dicembre è stata aumentata in maniera lineare dal governo l'addizionale regionale all'IRPEF con uno 0,33 in più. 0,33 su un'aliquota base di 0,9 vuol dire che aumenta del 30%, sì. per parlare chiaro. L'anno prossimo sale il tetto massimo sempre dell'addizionale regionale, sale dall'1,4, che è il tetto attuale 1,4%, al 2% e poi al 3% l'anno dopo. E ci saranno molte regioni quindi che saranno costrette, tentate o costrette, tentate e o costrette diciamo così ad alzare l'addizionale, siccome appunto i redditi sono sostanzialmente fermi, questo spostamento, questo determina uno spostamento importante di richiesta di finanziamento della pubblica amministrazione in tutte le sue articolazioni dalla fiscalità fiscalità generale alla fiscalità locale. Il problema è questo: la promessa del federalismo, come sempre capita in tutti i federalismi del mondo, era quella di aumentare le tasse locali ma di abbassare quelle nazionali. L'unico federalismo nel mondo che non ha fatto questo riequilibrio è stato quello italiano, che ha, per varie ragioni, anche in parte estranee al federalismo in senso stretto, ha aumentato le tasse locali e ha aumentato quelle nazionali. E anche le imposte indirette, tra l'altro. Se vogliamo aggiungere. Allora, aliquota media del 5,24 per mille. Esatto. Quanto peserà sulle nostre tasche? Facciamo solo due o tre esempi, Gianni, che... Sì. Allora, con 30.000 euro sono 150 euro all'anno, con 40.000 sono 200, parlo di aliquota media e così via. Il problema è che in molte città si arriva allo 0,8, che è il massimo, e quindi per un reddito da 20.000 euro sono 160 euro, per un reddito di 50.000 sono 400 euro e via a salire. Molti comuni, insomma alcuni comuni, una parte dei comuni ha introdotto delle soglie di esenzione. In pratica c'è chi arriva a 7.500, chi arriva a 10.000, eccetera, sotto le quali, parlo di reddito dichiarato, non si paga nulla. Da segnalare la eccezione positiva, diciamo così, del Comune di Milano, che è vero che ha alzato le aliquote in maniera progressiva fino ad arrivare allo 0,8 per chi dichiara di più, ma ha mantenuto una soglia di esenzione importante a 33.500 euro di reddito lordo all'anno. È piuttosto alta. È la più alta che c'è. E questo toglie dalla, come dire, dal peso delle novità una fetta importante di contribuenti. A Roma non cambia nulla, semplicemente perché Roma era già oltre il tetto massimo, perché il tetto massimo nazionale è dello 0,8, Roma è allo 0,9. Si può andare sopra il tetto massimo? No, non si può, solo Roma può, per una normetta ad hoc inserita l'anno scorso per cercare di finanziare la gestione corrente piagata dal maxi debito della capitale, la vecchia polemica Veltroni Alemanno. Quindi lì non può salire ulteriormente per ora, quindi rimane allo 0,9. La caratteristica, diciamo, noi abbiamo fatto esempi adesso anche chiacchierando di grandi città, la caratteristica però è questo aumento molto diffuso anche nei comuni medio-piccoli, perché il taglio, anzi i tagli agli ex trasferimenti sono lineari e sono doppi, perché sostanzialmente la prima manovra estiva del 2011 aveva previsto un obiettivo per il 2014, poi, se vi ricordate, l'estate scorsa c'è stato appunto il dramma dello spread, eccetera, è stato tutto anticipato di un anno, quindi c'è un doppio taglio quest'anno da rifinanziare in qualche maniera mettendo noi le mani nel portafoglio. Le 18:07, di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri SMS. Abbiamo parlato di IRPEF prima di chiudere, ci chiedete se Alessandria è all'1% di IRPEF comunale, come avete sentito poco fa da Gianni Trovati è impossibile perché il limite è fissato allo 0,8%. E allo 0,9% c'è solamente Roma in forza di una sorta di norma speciale. I mercati hanno chiuso, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, in guadagno. Milano meno delle altre borse europee, FTSE MIB più 0,24%, FTSE All Share più 0,37% contro un più 1,36% di Parigi, un più 1,24% di Francoforte. Londra su dell'1,25%, mentre è negativa l'America con il Dow Jones che perde mezzo punto percentuale e lo Standard & Poor's lo 0,36%. Questo il quadro dal lato dei mercati, e proprio sui mercati rimaniamo per la vicenda dello scandalo Libor. Sembra parola strana, parola lontana, in realtà è una questione che ci riguarda tutti, perché coinvolge anche il tema delle regole. Il tema delle regole, della trasparenza, dell'etica. Ancora una volta. Parliamo dunque del LIBOR. Per farvela molto semplice, è un tasso di interesse che indica il punto di riferimento per i mercati interbancari, cioè a che tasso di interesse le banche si prestano il denaro le une con le altre. Ovviamente c'è molto di più dietro, però questo è solamente per dare un'idea. Che cosa è successo? È successo che alcune banche inglesi, ma non solamente quelle a dire il vero, perché adesso la cosa sta emergendo con particolare potenza, anche per l'importanza del mercato londinese, per l'importanza delle banche britanniche, però anche l'antitrust elvetico aveva aperto un'indagine sugli istituti svizzeri proprio per questo tema. Cosa fanno? Hanno di fatto manipolato questo tasso. Dato che questo tasso viene calcolato su una media di quello che viene detto dagli istituti elvetici, dagli istituti bancari, ossia mettiamo che una banca dica il mio tasso è allo 0,25%, un'altra banca dica allo 0,30%, si fa la media tra questi due. Allora, manipolandoli, si manipola anche il tasso generale, e su questo naturalmente l'Inghilterra si sta interrogando, tanto che il governo vuole aprire un'indagine. Anzi, vi dico che è arrivata adesso la notizia che il cancelliere dello scacchiere George Osborne, e grazie a Barbara Bianchi che come sempre in redazione l'ha segnalata, ha confermato che una commissione parlamentare indagherà proprio sul comportamento delle banche per eventuali conflitti di interesse e standard etici. Una notizia prima di toccare a fondo questo tema è quella sul mercato dell'auto, ci torneremo tra poco. In giugno meno 24,2% per le immatricolazioni, meno 23,3% per Fiat e la quota del gruppo che è al 30,7%, ne parleremo tra poco. Ma prima tocchiamo questo tema. Saluto il professor Marco Nado, che è docente di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi di Milano, ex commissario Consob, spesso nostro ospite anche quando bisogna parlare di regole. Professore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le chiedo innanzitutto di aiutarci a dare una dimensione del fenomeno, perché io l'ho detta molto semplicemente, cioè sono i soldi, è il tasso con il quale le banche si prestano il denaro l'una con l'altra. In realtà sul LIBOR c'è tutto un mondo di trading sopra, no? Sì, c'è il mondo di trading, ma soprattutto c'è un mondo di riferimenti per prestiti tra imprese, per prestiti alle famiglie, eccetera. Vado subito detto che l'L di LIBOR sta per London, perché è un tasso che viene registrato a Londra, che naturalmente ha effetto su tutti i mercati internazionali. Per noi il tasso di riferimento è l'Euribor, cioè il tasso applicato all'euro, e quindi per fortuna non è toccato da questa indagine e da questi sospetti. Quindi è un tasso che riferisce a trilioni di contratti in essere, con tutte le conseguenze che ne derivano. Cioè la manipolazione è un inquinamento, o l'adulterazione di un cibo. In questo caso è stato adulterato, come posso dire, il latte, il pane, insomma, non un cibo per poco. Cioè la manipolazione di fatto in questo modo avviene potenzialmente su tutto il mercato? Sì, ha effetti su, ripeto, su trilioni di... non ricordo esattamente la cifra pubblicata qualche giorno fa, ma stiamo parlando di trilioni. Sì, se non sbaglio si parla... Se non erro, si parla, professore, di 350 trilioni addirittura, insomma. Famiglie, eccetera. Sì, la cifra è questa. Allora, professore, io innanzitutto le vorrei chiedere questo, e partendo dal tema delle regole, posto che torniamo a porci queste domande più o meno regolarmente ogni anno e mezzo, due anni, insomma, su come funzionano i meccanismi della finanza e su come è difficile tenere sotto controllo tutto questo. La prima indagine, in realtà, le prime avvisaglie di tutto ciò le ebbe un'autorità di controllo americana che è partita ad indagare sul Libor nel 2008 addirittura. Ora siamo nel 2012 e abbiamo adesso le risultanze. Non è che i tempi, e partiamo da questi, sono un po' lenti? Assolutamente, insomma, perché di sospetti sul Libor ce n'erano da sempre e si erano poi consolidati qualche anno fa, insomma, appunto, ovviamente si tratta di indagini, però francamente che si arrivi a una prima, un primo risultato di indagine dopo quattro anni, per un aspetto così importante del funzionamento dei mercati, non è tollerabile. Professore, resti e con noi. Sì, prego. Aggiungere, sì. La cosa che aggiunge gravità alla questione è che le banche indagate sono molte. Barclays è la prima per cui è stata conclusa la parte istruttoria, per così dire. Ma per Barclays si sa già che c'erano delle mail interne che dicevano chiaramente ai vertici della banca: guardate che qui c'è qualcuno che sta commettendo delle irregolarità gravissime. Quindi non è il solito trader infedele, insomma, è un aspetto che coinvolgeva l'intera banca, era conosciuto e segnalato, però questi segnali neppure all'interno della banca, neppure dopo tutto quello che è successo, vengono poi tradotti in comportamenti corretti. Sì, tra l'altro, in una lettera al Parlamento, Bob Diamond, che è l'amministratore delegato di Barclays, dice tra le altre cose che le stime sul Libor sono state abbassate per proteggere la banca da una speculazione poco accurata, che a noi suona un po' come "non ho rubato per me, ma ho rubato per il partito" di vecchia memoria. Adesso noi sentiamo la viabilità, professore, le chiedo di rimanere con noi per darci un'idea di, secondo lei, come se ne esce da tutto questo, perché i meccanismi di controllo evidentemente non hanno funzionato, ma ci sono possibili dei meccanismi di controllo su una cosa di questo genere, visto che il dato deve essere comunicato dalla stessa banca? E dunque, restiamo a parlare di questo scandalo. Lo ricordiamo, tra l'altro, per dovere di cronaca, che Barclays, che è la seconda banca del Regno Unito, è stata multata per 291 milioni di sterline, e Royal Bank of Scotland, che tra l'altro è all'82% di proprietà pubblica, starebbe per ricevere una multa da 150 milioni di sterline, che quindi a questo punto presumibilmente pagherà con i soldi degli stessi contribuenti, insomma, in questo strano giro. Professore, come se ne esce da tutto questo? Perché, ripeto, un meccanismo di controllo su un dato che deve essere comunicato dalla medesima banca è piuttosto complesso da mettere insieme. Ripeto, in questo caso specifico la risposta è: occorrerebbero dei meccanismi altrettanto severi di quelli che vengono da decenni adottati per i mercati di borsa, i mercati obbligazionari regolamentati, eccetera. E poi più in generale, ripeto, ci dovrebbe essere un ripensamento sul fatto che siamo troppo affidati all'idea che operatori privati si comportino in un modo che coincide con il benessere collettivo. E la crisi finanziaria ha dimostrato che non è così semplice. Professore, forse esagero, e qua chiudo e la saluto perché so, insomma, che è in partenza e quindi in una situazione piuttosto complessa. Ma in sostanza l'apparenza è quasi, forse la sto esagerando, la sto forzando un po', l'apparenza è quasi di un falso in bilancio, nel senso che si abbassa, si manipola il Libor per dar l'impressione di essere messi lievemente meglio a livello patrimoniale di quanto non si sia in realtà, perché poi questa è la sostanza, no? Il reato di manipolazione di mercato, lo dico sperando nell'indulgenza dei miei colleghi giuristi, il mercato di manipolazione del mercato è molto analogo al falso in bilancio, perché è un mercato che porta a comportamenti, a notizie false, insomma, e alla formazione di dati di mercato che non sono veritieri. Grazie al professor Onado per essere stato con noi e buonasera. C'è chi sospetta, tra chi ci scrive al 349-238-6666, che viste le dimensioni della questione, i famosi 350 o 360 trilioni di dollari, nessuno farà nulla per trovare i colpevoli. In realtà ci sembra che in Gran Bretagna stiano spingendo abbastanza a questo lato, vuoi anche per convenienza politica. E vi ricordiamo anche che non ci sono solamente Barclays e Royal Bank of Scotland nel mirino delle autorità, ma anche HSBC e Lloyds. Dunque, alle 18:21 minuti e 20 secondi, noi cambiamo argomento e passiamo a parlare delle immatricolazioni. Non prima però di avervi segnalato un'altra notizia, come si diceva in apertura, c'è la European Securities and Markets Authority, ossia l'ESMA, che è l'autorità di controllo sui mercati dell'Unione Europea, che dice, scrive il Financial Times oggi, ha fatto partire una sorta di indagine sulle tre grandi agenzie di rating per capire se il loro processo di definizione dei giudizi, soprattutto sulle banche, sia abbastanza rigoroso e trasparente. È arrivata una nota di Standard & Poor's su questo, che parla in realtà di ispezioni regolari da parte dell'ESMA, e dice anche Standard & Poor's: saremo lieti di spiegare all'autorità i passi che abbiamo preso per massimizzare qualità, trasparenza e coerenza dei nostri rating bancari. Veniamo alle immatricolazioni, pessime un'altra volta. Meno 24,42% il mercato in Italia a giugno. Fiat giù del 23,38% le immatricolazioni. La quota del gruppo sale al 30,7% dal 30,3% di giugno 2011, ma a maggio era stata del 31,6%. Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera. Allora, segnali ancora pessimi, del resto siamo in recessione. Sì, siamo in recessione, il segnale è fortemente negativo, d'altra parte l'andamento del mercato dell'automobile è perfettamente coerente con l'andamento dell'economia reale, basti pensare che la produzione industriale è in calo rispetto ai livelli antecrisi di circa il 24%, quindi direi che il mercato dell'auto è assolutamente in linea. Quello che è peggio è che però non si intravedano, quantomeno da parte degli operatori, non si intravedano prospettive di ripresa a breve termine, a meno che non vi sia un effetto, non si prolunghi l'effetto positivo dei buoni risultati ottenuti a Bruxelles dal Premier Monti, che ha determinato un'inversione di tendenza nelle borse e negli spread. Basti considerare che ad esempio quello che ha fortemente depresso il mercato dell'auto e i consumi in Italia, come emerge da uno studio dell'Istat di qualche giorno fa, è che alla fine dello scorso anno vi è stato un recupero della propensione al risparmio. La gente prima aveva rinunciato a risparmiare per sostenere i consumi nella prima fase della crisi, poi la grande paura di fine dell'anno scorso ha determinato un ritorno al risparmio e questo ha depresso ulteriormente i consumi. Se ora la gente viene e i mercati vengono rassicurati e la gente con i mercati, potrebbe determinarsi un miglioramento del clima di opinione e quindi una condizione psicologica favorevole quantomeno a un secondo semestre non peggiore del primo. Questo per quanto riguarda il secondo semestre. Naturalmente questo primo semestre è stato terrificante per le aziende automobilistiche. In Francia, per esempio, le immatricolazioni a giugno, e anche questo è un dato di oggi, sono scese appena dello 0,9%. Sì, questo è vero, ma in Francia è così, ma in Spagna ad esempio non è così, e poi se consideriamo tutti i paesi dell'euro vediamo che sono quelli in cui il mercato dell'automobile va peggio, perché nel resto del mondo il mercato non va affatto male, anzi in alcuni paesi, in molti paesi è in forte ripresa, quindi la situazione del mercato dell'auto è legata più che a fattori specifici penalizzanti che pure vi sono, come il caro benzina, care assicurazioni, un eccesso di imposte, essenzialmente alla situazione dell'economia, ed è dalla situazione dell'economia che il mercato dell'auto si aspetta il rilancio sostanzialmente. Anche perché nuovi incentivi, anche se vengono fortemente richiesti da una parte degli operatori, non sembrano molto probabili, almeno al momento attuale. Allora, prima di chiudere questo collegamento sulle immatricolazioni, c'è un'altra notizia che riguarda il gruppo Fiat di queste ore. A parte la nuova cassa integrazione per gli impiegati di Mirafiori, quasi tre settimane, uno stop che interesserà circa 5.000 dipendenti, di cui solo 500 operai, c'è questa notizia invece che riguarda l'Iveco e questa scelta di chiudere 5 stabilimenti in Europa entro l'anno. Sono riguarda 1.075 lavoratori, rassicuriamo innanzitutto che non ce n'è nessuno in Italia, ma tra l'altro curiosamente se ne chiudono 2 in Germania, 2 in Austria, 1 in Francia per rafforzare uno stabilimento in Spagna in realtà. Che tipo di mossa è? Ma è difficile dirlo, d'altra parte io sono un esperto di mercato e non di politica industriale, quello che posso dire è che il mercato dei veicoli industriali sta andando malissimo in Europa, in Italia è in calo del 50% e nel resto d'Europa è in calo meno, ma comunque in forte calo, e questo naturalmente induce a scelte come questa che certamente sono dolorose. Grazie, grazie a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, per essere stato con noi. Mi dispiace che Sergio, che ci ha scritto al 349-238-6666, abbia cambiato canale, come scrive, perché dice che siamo dei manipolatori di notizie e delle funeste Cassandre, e avrei veramente voluto capire che cosa intendeva e a che cosa si riferiva. Comunque chiudiamo qua la puntata di Focus Economia, grazie a Paolo Corleoni in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno come sempre in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia, ci risentiamo domani dopo il GR delle 17.